la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, buon inizio di settimana in questo lunedì 23 di marzo, 16:33 primi e 14 secondi qui dagli studi di Radio 24 di Milano in diretta. Ricordo a tutti l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per chiedere temi, ospiti, autoproporvi, perché come sapete spesso le trasmissioni nascono da voi e sono fatte per darvi voce su storie che rappresentino storture o quando capita. Ahimè, troppe poche volte, quindi segnalateci anche queste, le cose che funzionano invece nel nostro paese. Allora, oggi ci occupiamo di un tema, per capire se telefonare e darci la vostra opinione all'800240024 oppure comunque gli sms 349-238-6666, che in teoria sembrava risolto l'anno scorso per effetto di questo governo. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando dei tetti alle retribuzioni pubbliche. Sapete che questo governo l'anno scorso ha dato una regola generale, per così dire. Questa regola generale è quella che le retribuzioni pubbliche, a differenza di quanto avveniva prima, non dovrebbero andare oltre i 240.000 euro lordi l'anno, quindi adottando un criterio che è quello della retribuzione data al primo presidente di Corte di Cassazione. È un criterio che prima veniva superato per multipli, c'erano dirigenti dello Stato che guadagnavano 5, 6, 700 mila euro, c'erano manager pubblici che guadagnavano cifre di gran lunga superiori. Sapete che l'eccezione per le imprese pubbliche che resta riguarda quelle quotate, per le quali i compensi, siano diretti che indiretti, con stock option e così via, possono essere molto superiori, perché la regola è rimasta che per le imprese quotate il criterio debba essere quello di compensi puramente di mercato. Ma in realtà credere che davvero valga per tutti nel settore pubblico e nelle partecipate il criterio dei 240.000 euro lordi si rivela un atto di fede, perché andando a controllare diverse volte, troppe volte, diciamo così, per ricordando che la cinghia è stata stretta dagli italiani, invece si scopre, con un po' di attenzione, ci vuole molta pazienza nell'andare a guardarsi le norme, i bilanci e così via, si scopre che le eccezioni restano, e restano magari anche confermate da autorevoli interpretazioni giurisprudenziali. E quindi risiamo alle solite, per così dire. Naturalmente il compito dell'informazione è quello di andare a scovare questi casi e di documentarveli. Io vi chiedo semplicemente se nella vostra impressione si è fatto tutto quello che si doveva, o se invece continua a essere un problema che vi crea qualche mal di pancia, per così dire, quello delle retribuzioni pubbliche rispetto a quello che guadagnano o non guadagnano i privati. E oggi appunto vi documenteremo un caso che resta appunto forte di un'interpretazione formale, ufficiale, per così dire. Ricordo poi che ci sono ancora delle isole in cui vige la privacy, per esempio la RAI, di cui ci viene confermato che in settimana forse dovremmo avere il testo promesso della riforma da parte del governo. La RAI, che pure ha dichiarato di avere tagliato le retribuzioni del direttore generale, del presidente, la Tarantola guadagnava molto meno del direttore generale, eppure la RAI continua per esempio a non dare pubblicità alle retribuzioni dei suoi dirigenti, e lo fa invocando ragioni di privacy. Allora, la privacy è una faccenda un po' delicata nel nostro paese. Ricordo a tutti che noi siamo tenuti a essere osservati, siamo tracciabili in ogni nostro movimento bancario, e le banche dall'inizio di quest'anno informano le agenzie tributarie di tutto quello che facciamo, e non solo della giacenza media, perché le agenzie possono chiedere qualunque movimentazione senza bisogno di di chiedere più l'autorizzazione giudiziaria, niente a nessuno, quindi noi siamo assolutamente e tassativamente trasparenti agli occhi dello Stato, ma ci sono pezzi dello Stato, perché la RAI a tutti gli effetti è così, che invece invoca le ragioni di privacy per non dire quanto sono pagati i suoi dirigenti. E chi ne volesse conferma, se va su lavoce.info, si tira giù gli articoli del professor Roberto Perotti, prima che Roberto Perotti assumesse l'incarico di consulente di questo governo, per vedere come anche in quel caso lui era costretto per la RAI, in tutta la lunga serie di articoli meritori che ha fatto per comparare le retribuzioni pubbliche tra il nostro paese e quello di altri grandi paesi, nel caso della RAI lo fece con la BBC, ma era costretto ad andare a tentoni, cioè a dire quanti forse dirigenti stavano sopra e sotto la quota dei 200.000 euro, 300.000 euro, perché i nomi non li sappiamo e quindi non riusciamo a sapere chi prende quanto alla RAI. Ma oggi non ci occupiamo di RAI, perché sul Corriere dell'Economia di oggi, cioè il supplemento economico-finanziario che trovate abbinato al Corriere della Sera tutti i lunedì, come a fare finanza quello di Repubblica, in prima pagina c'è un articolo di uno dei colleghi più benemeriti per quello che ha scritto, devo dire oramai migliaia di pagine in questi anni sui paradossi e le contraddizioni dell'Italia pubblica e di quella privata, e anche delle collusioni di quella privata con le improprietà di quella pubblica, che è Sergio Rizzo, giornalista del Corriere della Sera, che è con noi oggi pomeriggio per spiegarvi esattamente il caso che ha tirato fuori oggi a proposito di violazioni, ma in regola con la legge, del tetto dei 240.000 euro nel campo del settore pubblico. Buon pomeriggio e grazie a Sergio Rizzo per essere con noi. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Ricordo anche a chi ci ascolta che, se volete ampiamente far stare ulteriormente peggio il vostro fegato, allora comprate e leggete con abbastanza, diciamo così, fuori dai pasti, per non peggiorarvi la digestione, il libro di Sergio Rizzo che è uscito alla fine dell'anno scorso, che si intitola Di qui all'eternità, l'Italia dei privilegi a vita, che ha un bel po' di casi documentati esattamente di questo tipo e anche di peggio. Allora, Sergio Rizzo, stiamo parlando del caso che riguarda una delle cinque scuole, per così dire, superiori della pubblica amministrazione che esistevano prima della riforma, che in teoria le ha accorpate l'anno scorso riducendole a una sola. È così? Sì, questa era anche una scuola un po' particolare, a dir la verità, perché questa qui era una scuola dove venivano messi a libro paga tutta una serie di personaggi che dovevano integrare i loro stipendi in modo abbastanza rilevante, no? Ed erano poi tutti quelli, cioè tutti, gran parte, diciamo, dei collaboratori dell'ex ministro Tremonti. Si chiamava Scuola Superiore dell'Economia e delle Finanze. Dell'Economia e delle Finanze. Allora, cioè, dove appunto le ultime tabelle che venivano pubblicate, perché adesso se andate a vedere dentro non c'è neanche più un numero. Viva la trasparenza. Esatto, ma c'erano stipendi, diciamo, che andavano dai 250 ai quasi 600.000 euro, no? Che per professori che poi non insegnavano lì, nel senso che erano a libro paga della scuola, però poi in realtà avevano tutti altri compiti e prendevano retribuzioni anche per l'altro compito, quindi arrivavano a delle cifre che erano veramente sbalorditive, ecco. Allora, a un certo punto che cosa capita? Nomi come quello di Vincenzo Fortunato, come quello di Marco Milanese. Sì, Vincenzo Fortunato era il personaggio più eclatante, no? Perché aveva una retribuzione, mi pare di ricordare, di 583.000 euro. Così risultava dalla scuola. Dopodiché, poi qui c'è sempre il solito problema di trasparenza, no? Nessuno ha mai saputo davvero quanto guadagnassero questi grandi burocrati dello Stato. Ma l'epoca è finita, come tu ricordavi precedentemente, si era stabilito prima il tetto della Cassazione, poi quello del Presidente della Repubblica, e quindi tutti quanti dovrebbero allinearsi alle 240.000 famose euro all'anno. Se non che per le scuole si è fatto un provvedimento ulteriore che, per mettere ordine in quella confusione, cioè, ne abbiamo una quantità impressionante di scuole della pubblica amministrazione, no? Allora, a un certo punto, meritoriamente va detto, il governo Renzi la scorsa estate aveva fatto un provvedimento per, diciamo, fondere insieme tutte queste scuole e mettere tutte sotto un unico cappello. con un principio fondamentale, no? Che di assolutamente condivisibile, cioè che le retribuzioni dovevano essere allineate a quelle dei professori universitari, il che significa che il massimo della retribuzione di un docente ordinario credo che sia intorno ai 140.000 euro lordi l'anno, quindi molto al di sotto, molto al di sotto del tetto, esatto, del capo dello Stato. Oh, a questo punto che cosa succede? Succede che il governo fa un provvedimento, lo manda al Consiglio di Stato per il bollino, perché il Consiglio di Stato deve sempre, no, esprimere un parere poi su questi provvedimenti, e gli torna indietro una cosa che dice: caro governo, lo devi riscrivere, perché così come è scritto non si capisce che cosa si possa fare con quegli stipendi precedenti, che erano molto più alti di quelli che tu vorresti imporre, perché ci sono delle norme che non sono state esplicitamente abrogate, quindi queste norme vanno esplicitamente abrogate se vogliamo veramente tagliare questi stipendi. E poi, siamo sicuri che tagliando questi stipendi poi questi non scappano tutti quanti e ci privano della loro fondamentale esperienza di insegnanti e non ci fanno, diciamo, impoverire, no, il livello di queste scuole? Così gli rimandano indietro il testo e adesso il governo dovrà riscriverlo, ovviamente, però questa la dice lunga sulle resistenze, no, che scattano ogni volta che qualcuno prova a dire: ma diamo una sorbiciatina a queste paghe. Insomma, è un po' la storia della burocrazia che difende se stessa, no? Perché poi va detto anche che molti di questi insegnanti vengono da quei ruoli lì. No, e oltretutto ad aver esteso, come appunto ricordi sul Corriere Economia, il parere del Consiglio di Stato che dice: no, caro governo, tu non hai abrogato un decreto legislativo del 2009, quindi quello che hai deciso non vale, e in realtà un ex segretario generale del Senato che a propria volta, come segretario generale del Senato, godeva di un trattamento economico ma proprio multiplo di quello introdotto. Multiplo perché lo poteva sommare. Esatto. No? Perché questi super burocrati, poi molti di loro, ricordato che soprattutto quelli appunto di nomina governativa, venivano mandati già pensionati al Consiglio di Stato, quindi potevano sommare la pensione in alcuni casi stratosferica. Ricordo che l'ex segretario generale del Senato Malaschini aveva una pensione lorda di 519.000 esatto, euro l'anno, no? Esatto. Ecco, potevano sommare a questi trattamenti previdenziali, diciamo, io non li definirei neanche pensioni, non so che termine si potrebbe usare per una cosa del genere, ma certo non pensione. Ecco, potevano sommare a questi assegni anche il loro legittimo, no? Secondo le regole, trattamento economico spettante Consiglio di Stato, che sono tipo altri 180.000 euro o 200.000, insomma. Io, a dirti la verità, negli anni, avendo visto quante volte, se la politica si decide a intervenire sui trattamenti retributivi oppure preferenziali contributivi degli alti dirigenti dello Stato, incappa poi in provvedimenti di cui viene contestata la legittimità da parte di organi della giustizia o amministrativa o costituzionale, mi sono anche, devo dire la verità, talvolta posto il dubbio se coloro che stendono questi provvedimenti, che vengono scritti dai dirigenti pubblici, non dai politici che non hanno l'ABC necessario per scriverli in termini di complessità legislativa e normativa, non siano scritti apposta poi per incappare nella obiezione, perché per esempio quando avvenne anche per il freno agli scatti retributivi dei magistrati, che cadde in Corte Costituzionale di fronte a delle obiezioni della Corte Costituzionale che da una parte, come in questo caso, avevano a che vedere con la completezza dei riferimenti normativi del testo di legge del governo, dall'altra poi abbracciavano il principio sostanziale che gli aumenti retributivi nel pubblico impiego dovevano rimanere solo ai magistrati perché erano un baluardo della serenità, senza la quale non c'è indipendenza del giudice. Io mi feci ampie risate, perché non capisco perché la serenità di tutti i pubblici dipendenti non fosse collegata automaticamente agli scatti retributivi. Però ecco, in quel caso anche c'era l'obiezione sulla norma tecnica, e la convinzione che resta in me è che spesso, quando un governo dice tagliamo questa roba ai dirigenti pubblici, il dirigente che stende la norma, per così dire, strizza l'occhiolino al suo collega che sarà in Consiglio di Stato, o se è un magistrato invece, o anche un non toccato in Corte Costituzionale, dicendo: beh, ti ricordo con un post-it che qui naturalmente c'è già il presupposto per dire che questo taglio non entrerà in vigore. Naturalmente io sono in malafede, però sapete com'è, certe volte non si sbaglia a essere un pochino sospettosi, come ricordava il mitico Giulio Andreotti. Adesso abbiamo 60 secondi di informazione stradale, poi torniamo con le vostre opinioni e le vostre domande a Sergio Rizzo. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta a parlare di questo esempio della Scuola Superiore di Economia delle Finanze, accorpata alla Scuola Superiore di Amministrazione da questo governo, e del parere del Consiglio di Stato, che dice però che il limite di 240.000 euro introdotto all'atto dell'accorpamento retributivo però non va molto bene, perché non è stato abolito un decreto legislativo del 2009, e poi perché c'è un problema sostanziale: non è che li facciamo andare via questi insostituibili docenti. Allora, alcuni ascoltatori fanno presente a Sergio Rizzo che alla Scuola di Economia delle Finanze Superiore però avevano anche abbondante accesso i Ciampi Boys, Vittorio Grilli, quindi non era solo una cosa di Tremonti e così via. Seconda osservazione: c'è un blocco di SMS che dice che in realtà l'eccezione lasciata in molte partecipate locali non contempla affatto solo i casi di quelle quotate, perché le retribuzioni continuano a essere molto molto elevate. Io vi chiedo di segnalarcele però in questo caso, perché ovviamente facciamo le trasmissioni, sapete che non dovete convincere me del fatto che bisogna toccare le partecipate locali, e mi chiedo anche, e chiedo a Sergio Rizzo come seconda osservazione oltre alla prima, che siamo stati un po' parziali politicamente secondo alcuni ascoltatori, mi chiedo se adesso che Renzi dal punto di vista di Sergio Rizzo assume l'interim, vedremo se il capo dello Stato gli dice di sì alle infrastrutture, si pentirà o meno di non avere attuato il taglio delle 35.000 stazioni appaltanti pubbliche a 35, come era promesso all'atto del governo, visto che la moltiplicazione delle stazioni appaltanti è uno dei problemi del perché poi la legge obiettivo e le grandi opere siano un enorme formaggio con tanti buchi per topi roditori. Che dici di queste due obiezioni, Sergio? Ma dunque, intanto che se uno va a prendere la lista di questi docenti fuori ruolo che avevano quel trattamento di cui parlavamo prima, c'erano veramente a un certo punto quasi tutti i collaboratori più stretti di Tremonti, quindi da questo punto di vista non è che sono stato come dire poco imparziale, è che la realtà dei fatti è questa, era questa perlomeno. Per quanto riguarda i Grilli, Grilli diciamo è un Ciampi Boy fino a un certo punto, forse all'inizio, ma poi è diventato un Tremonti perché è stato nominato ragioniere generale dello Stato nel 2001 da Tremonti, poi è stato fatto da Tremonti direttore generale, poi è rimasto con Tremonti anche successivamente, quindi è stato qualcosa come 11 anni con Tremonti. La precisione obbliga a dire questo. Sì. Quindi va bene, sì, Ciampi Boy, ma anche Tremonti Boy. Poi peraltro Vittorio Grilli, che io ho avuto la fortuna di conoscere, è sicuramente persona competente, sì. e diciamo di sicura, come dire, imparzialità. Su questo non c'è alcun dubbio. Resta il fatto che anche Grilli era uno che aveva una retribuzione molto alta, giustificata col fatto che era stato preso dall'esterno, quindi per le norme introdotte a suo tempo da Bassanini, eccetera. Però anche questa era un'anomalia oggettivamente, esatto. Diciamo la verità. Che se rimaneva con lo stipendio da banchiere dopo aver fatto il banchiere. Esatto. Per quanto riguarda le partecipate locali, sappiamo come funziona, no? Sappiamo che il tetto di 240.000 non vale per tutti, vale soltanto per quelli di diretta nomina del governo, dello Stato centrale, esatto. Non per quelli, per cui niente di più facile che si sia trovato il sistema per scavalcarlo quel tetto a livello locale, no? Questo è noto. Cioè... Purtroppo è così ancora, e questo la dice lunga della resistenza del sistema dei partiti. Sentiamo Ferdinando da Teramo come la pensa. Ferdinando, prego. Sì, buonasera Giannino, buonasera. Sì, buonasera. Guardi, io volevo solo semplicemente dire una cosa, non ricordo bene la circostanza nel provvedimento adottato dal governo Monti, io sono un pubblico dipendente, a un certo punto ci bloccarono contratti, ci bloccarono tutti, sì, sì, certo. con due righe, secondo me sarebbe opportuno anche, insomma, demagogicamente fare con tutti questi gran compiti di Stato la stessa cosa. Ferdinando, tu poni un problema dell'asimmetria dell'efficacia dei provvedimenti. Un conto è lo stop dei rinnovi contrattuali e di scatto di stipendio che scatta a tutti, rispetto invece alla complessità normativa se bisogna assumere un provvedimento sui massimali di retribuzione dei dirigenti pubblici. È un problema sostanziale o formale questo che solleva il nostro ascoltatore, Sergio, secondo te? Ma secondo me, dal suo punto di vista, credo che sia un problema sostanziale di equità, no? Già. Cioè, se non ho capito male, lui dice noi ci hanno bloccato gli stipendi, però poi alcuni di loro no, in realtà hanno continuato a prendere quello che prendevano. Questo è, lui ne fa una questione di equità, ma ha perfettamente ragione, no? Andrebbe ricordato che poi qui c'è un conflitto di interessi, no? Cioè c'è un conflitto di interessi di fondo, perché come ricordavi tu, cioè quelli che scrivono i provvedimenti poi sono gli stessi che li devono, che li devono applicare, quindi niente di più semplice che io. Tu prima hai fatto un accenno al fatto che a questo problema qui, dicendo ma secondo me forse si potrebbe sospettare addirittura che sia apposta male, no? Sì. Io aggiungo una cosa, che se come ormai si è verificato tutte le volte che va in Corte Costituzionale, la Corte poi gli boccia, a voler pensare bene, non male, si potrebbe dire che forse non sono così preparati questi forse andrebbe, sarebbe una buona ragione per sostituirli e farli ruotare. Va bene, il tempo è finito, io ringrazio Sergio Rizza, continuate su Radio 24, appuntamento come domani.